La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Giornata difficile oggi, credetemi, giornata difficile non perché fuori ci siano 90 gradi, pare, sentendo i TG e i GR, pare che fuori ci siano 90 gradi. Io sono qui al fresco nella sede della radio e quindi non sto soffrendo. Soffro perché oggi dobbiamo parlare di un argomento che non mi appartiene, ma questo non interessa. Una delle prime cose che vi ho detto quando ho cominciato La Bella Estate, il programma che io conduco ogni giorno, sono Tommaso Labranca, ormai dovreste saperlo. Comunque la prima cosa che vi ho detto è stata: io sono la vostra nuvola, la cloud dei computer in cui vi portate tutti i dati. Bene, oggi dovete trasportare nella nuvola Labranca tutto ciò che voi avete in mente, tutto ciò che ricordate legato a moto, motorini e altri tipi di locomozione su due ruote, però sempre a motore. Infatti il titolo della puntata di oggi è Vroom! Vroom, questo rumore che io sentivo quando ero piccolo. Vi ricordate l'inizio del film Stardust Memories con Woody Allen? Bene, c'è Woody Allen che sta sognando di essere su un treno pieno di vecchia gente triste e vede dall'altra parte un altro treno pieno di giovani che si divertono. Ecco, immaginatemi a casa che sento il rumore dei motorini. Io non so andare in motorino, non mi è mai interessato andare in motorino. Io odio i motorini, questo posso dirlo. Proprio dichiarare, io odio i motorini, odio le moto. Oggi sarà molto difficile come puntata. Ed ero molto felice quando qualcuno voleva il ciao e la mamma non glielo comprava e doveva accontentarsi di questo. Questa è la tua vita, vieni insieme noi. Questa è la tua vita, resta insieme noi. Prendi un califfo, c'è per te. Adesso puoi volare. Prendi un califfo perché tu hai quel pitrico in più. Califfo Joe, califfone, eleganza più brio. Anche l'eco, eleganza più brio, ormai non so se c'è più in giro il califfone, che era un po' il ripiego di quelli che volevano il motorino più costoso e non riuscivano ad averlo. Oggi quindi voglio sapere le vostre storie a bordo, se si dice a bordo, a cavallo, si dice a cavallo, non lo so, dei ciao, dei calippo, non dei calippo, dei califfo. Vedete, sono così lontano dal mondo delle moto che già mi stavo facendo un gelato. 800 24 00 24, soltanto per storie, diciamo piccole, perché le storie grandi ve le daremo noi. Non parlatemi, perché tanto so che avrete inventato tutto, di quando con un califone siete andati da Milano fino a Cefalù. Magari è vero, ma io non ci credo. Le storie grandi ve le facciamo sentire noi e ne abbiamo già una che vi sta aspettando. Abbiamo al telefono il primo ospite, che è Roberto Parodi. Buongiorno Roberto. Buongiorno, ciao. Allora, ciao Roberto. Roberto Parodi è un motociclista, ma non un motociclista così che prende la mattina il motorone e va a lavorare. No, no, lui ci va e ci fa dei viaggi abbastanza lunghi, vero? Sì, diciamo che è la mia passione quella di girare un po' il mondo in moto, e in particolare una moto un po' particolare, che è una vecchia Harley Davidson, quindi non è la solita moto iper preparata per viaggi come grosso enduro, ma un vecchio ferro della vecchia scuola, diciamo. Beh, vecchio ferro, dai, sarà un po' affidabile. Io ho letto tutti i viaggi che hai fatto, e andare con un vecchio ferro fino in India non è così facile. Beh, allora, la denominazione vecchio ferro è molto affettuosa e tra gli arlisti è il modo di chiamare affettuosamente così la propria moto, perché le nostre moto sono proprio di ferro, di metallo, a differenza dei plasticoni, che invece sono un po' la denominazione che noi diamo agli scooteroni oppure ad alcune nuove moto che cedono un po' troppo sulla plastica. Ah, ecco, vedi, appunto, non essere un arlista uno lo sa. Quindi voi chiamate vecchio ferro la moto così affettuosamente, come uno chiama vecchia Befana la suocera, sempre con quell'affetto, quell'amore che uno può avere. Senti, io ho letto che tu, uno dei tuoi ultimi viaggi, ha avuto come meta Timbuktu. Ecco, allora, toglici una curiosità. Noi abbiamo letto su Topolino per anni questo nome, Timbuktu. Pensavamo non esistesse, cioè ogni volta Paperino veniva mandato a Timbuktu per punizione. Tu ci sei stato, com'è? È veramente un luogo punitivo. Ma oltre a Paperino lo leggevate anche nella carica dei 101. Ti ricorderai che Edgar, il maggiordomo cattivo, viene chiuso dalla cassa. Esatto, sì. No, giusto, gli Aristogatti. Viene chiuso nella cassa e viene spedito a Timbuktu. Timbuktu. Che, che in realtà è un posto bellissimo, perché è un posto di grandi culture, tradizioni, un posto che è situato in fondo al deserto del Sahara e da un lato pone un po' il confine tra il deserto e la savana sul fiume Niger, un posto che ha raccolto libri, studiosi, persone, ricchi mercanti, un posto che adesso ovviamente è un po' in decadenza, però mantiene un grande fascino e tra le altre cose organizza una volta all'anno a gennaio un bellissimo festival che ricorda molto Woodstock, sì. Sono 3 giorni di musica etnica, folk, ma anche rock, che viene suonata in mezzo alle dune con grande fascino, devo dire, al quale noi siamo riusciti ad arrivare dopo lunghe peripezie in moto, eravamo le uniche 3 moto che erano riuscite ad arrivare là. Ecco, ma se succede qualcosa, se si rompe un pezzo della moto, come fai? Sei lì nel deserto, in zone che non conosci, come fai a risolverlo? Cos'è? La moto è un linguaggio universale anche. Beh, allora, la moto è certamente un linguaggio universale e suscita subito affetto, nei confronti di chi sceglie questo mezzo per attraversare il deserto o magari fare un viaggio. Il problema di viaggi in moto è che per un verso o per l'altro non si è mai perfettamente attrezzati, la temperatura cambia all'improvviso, si mette a piovere, la strada si ghiaccia, si ricopre di sabbia, chi guida una moto subisce sulla propria pelle ogni minima variazione meteorologica, ecco. E questo è una cosa che suscita subito molta simpatia. È vero, qualche motociclista non riesce a accettare tutto questo e allora si compra una moderna BMW iperaccessoriata con manopole riscaldate oppure casco termico, però ecco, non sono quelli della nostra categoria. Noi allora preferiamo affrontarlo. Conviene prendere il Frecciarossa, scusa, a questo punto, se uno vuole viaggiare comodo. Sì, certamente, diciamo, anche il Frecciarossa comunque, diciamo che noi viaggiamo un po' con lo stile di chi rivaluta le vecchie cose. Non abbiamo il GPS, non abbiamo il satellitare, usiamo vecchie carte Michelin e ci fidiamo molto di chi incontreremo. Quando non avremo benzina qualcuno si fermerà a prestarcela, se si romperà la moto, come hai detto tu, ovviamente un minimo di conoscenza ci vuole, è l'attrezzatura giusta e saperla usare, cioè, forse è inutile, forse è più facile tutto dietro. Ecco, no, dico, forse è più facile sistemare un ferro vecchio come lo chiami tu, piuttosto che una macchina elettronica moderna. Assolutamente. Ti dico, in un altro viaggio da Milano a Nuova Delhi che abbiamo fatto io con la mia vecchia Harley e un mio amico invece con una modernissima BMW, è stata un po' una sfida epocale di due scuole, in Pakistan, che non è esattamente uno dei posti ideali per avere una PAN, il mio amico con la sua BMW modernissima ha avuto una panne elettronica, che è la cosa peggiore che possa capitare, e ti assicuro che metterla a posto è stato impegnativo. L'abbiamo dovuto mettere a posto noi, perché nessuno era capace. Comunque Roberto, adesso stai lì che ti faccio impallidire, perché c'è Giampiero dalla provincia di Bergamo. Giampiero? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora sentiamo la tua avventura, facciamo impallidire quelle di Roberto. Tu cosa hai fatto? Allora, io faccio parte di un gruppo, un'associazione sportiva, sì. Gli amanti del ciao, guarda caso. Gli amanti del ciao. Un centinaio di tesserati e quest'anno, circa un mesetto e mezzo fa, siamo partiti da Bergamo, sì. Siamo andati a Maranello, al Museo della Ferrari e ritorno rigorosamente col ciao. Ma quindi da Bergamo, un giorno di viaggio andare, un giorno di viaggio a tornare. Bergamo, Maranello in ciao, quindi questo figurati, lui va con la Harley Davidson fino a Timbuktu e niente. Harley Davidson è fatta per viaggiare, il ciao è un sogno. Ma siete arrivati tutti oppure avete perso dei pezzi e delle persone lungo la strada? Eravamo ben organizzati, avevamo 3 muletti su un furgone pronti all'uso. Sì. Io sono stato l'unico e anche il primo a rimanere a piedi, quindi ho apprezzato questa cosa. Sei stato fortunatissimo, ma c'era anche, che so, un'ambulanza, queste no, cose? No, ambulanze no, per carità. No, perché io mi immagino no, sempre la corsa furgoni, ciclistica. Sì. Avevamo le cose fondamentali, furgoni con il cibo, sì? Con l'acqua. Eh? E furgone per poter caricare eventualmente i cadaveri ferrei, sì. E per poter trasportare, diciamo, i piloti. E a Maranello? L'anno prossimo abbiamo in mente Roma. No, Bergamo-Roma. Sì, Bergamo-Roma, in ciao. Senti, ti lascio il mio numero di telefono, poi mi fai sapere com'è andata. Sì, ascolta, è un'altra cosa. Io, sì. Da giovane, non avevo ciao. E cosa avevo? Califone. Ah, quindi hai avuto un upgrade praticamente, complimenti. Sì, no, sono, guarda, è stato il mio sogno prendere il ciao a 45 anni. I risparmi di una vita sono stati impegnati bene. Ciao, ciao Giampiero. Ti ringrazio. Ciao. Buona giornata a tutti. Roberto. Eccomi qua. È un'avventura che fa veramente impallidire il tuo viaggio fino a Nuova Delhi, No, assolutamente. Tra l'altro mi immagino quante volte avranno dovuto fermarsi per far benzina, perché nel ciao c'è tipo un litro, no? Un litro e mezzo. Facevano come i B-52 che fanno rifornimento in volo, è presente, se li seguiva. Senti, ma quando tu vai in luoghi tipo, cioè vai da Milano, metti, fino a Nuova Delhi, devi attraversare delle zone tipo l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan, il Pakistan, non sono proprio, cioè non è gatto mare, sono zone anche un po' pericolose, com'è che fate? Ci sono problemi burocratici? Beh, allora, i problemi burocratici sono l'ultimo dei problemi in realtà, i problemi veri sono quelli che hai evidenziato tu, cioè il fatto di attraversare qualche zona che può essere pericolosa così da un punto di vista politico, da un punto di vista proprio dell'incolumità personale. Nel caso del viaggio a Delhi abbiamo attraversato l'Iran, che si è rivelato essere molto più sicuro di quanto immaginavamo, sì, specialmente da un punto di vista stradale, perché non dimentichiamo che la possibilità, l'eventualità di essere rapiti o magari avere problemi, diciamo, di quelli che poi vengono detti al telegiornale è veramente limitata. È invece altissima la probabilità di avere un incidente stradale, che è quello che la mamma, quando tu parti e dici mamma vado a Nuova Delhi, pensa subito a Bin Laden piuttosto che ai talebani, e non pensa al fatto che tu devi viaggiare in nazioni dove tra l'altro la guida è a sinistra. Poi sarà una guida allegra anche. Ecco, esatto, e sono tutti pazzi, quindi il vero problema è quello. Sono quelli. Senti, per concludere, ricordo che tu hai scritto dei libri, Il cuore a due cilindri, che è una specie di un manuale sulla moto, sì. Poi un romanzo si chiama La scheggia. Scheggia, non la scheggia. Ah, scheggia, che praticamente, scheggia. No, perché tu parli di la scheggia come questa tua spinta prendere la moto e a partire. È vero. Scheggia è il soprannome del protagonista di questo romanzo, che viene chiamato Scheggia proprio perché proprio quando sta per combinarne una delle sue, negli occhi gli brilla una luce sinistra che viene chiamata la scheggia, ecco. quindi lui è scheggia. E poi c'è un terzo libro, esatto. sta per uscire. È un altro romanzo che si intitolerà Controsole, e esce dopo l'estate, sempre per Tea Libri, e sarà un romanzo in cui ancora scheggia ritorna e affronta quest'ultimo viaggio che poi è uno stampo del mio viaggio da Milano a Nuova Delhi, però ovviamente è un romanzo, quindi con personaggi inventati, ma il viaggio è vero. La base è quella, praticamente. E lo farà insieme a suo figlio, quindi c'è un'evoluzione di scheggia. Ah, quindi anche tu passi al califone al ciao, come con il nostro ascoltatore di prima. Senti Roberto, esatto. Grazie tante, buon viaggio, mi raccomando. Grazie, ciao. Grazie ancora. Ciao, bene, ciao. 800 24 00 24, mi suggeriscono, perché naturalmente io non so neanche cosa significhi, di rispondere a questa domanda. Vi siete mai posti il dubbio, e se sbiello? Ma cosa vuol dire sbiello? Non lo so, vabbè. Ho comprato anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada. Beh, un'altra grande avventura, da Bologna a Riccione, quella che aveva fatto Luca Carboni con la moto usata ma tenuta bene, perché poi ci sarà anche un mercato di moto usate, di califoni usati, io non lo so. Non so assolutamente nulla di questo argomento, mi sento veramente un po' perso oggi, comunque ne verrò fuori. So soltanto che c'è qualcosa che detesto, e sono precisamente tre cose. Cioè, sopportavo i califoni e i ciao, i quad non li sopporto. Io quando vedo questi tamarri sul quad che attraversano i campi in cui magari sono andato a correre, mi dà veramente fastidio. Mi danno anche fastidio quei signori sui 50-55 anni che vanno in giro con l'abito, lo smanicato, sui motoroni in città, perché così pensano di non inquinare. E vabbè, come vedete sono una persona molto insofferente. Damiano. Buongiorno. Ciao, dillo anche tu che sono una persona che non sopporta nulla. No, il quad non è una cattiva idea. Piacerebbe anche a me. Come piacerebbe anche a te? Bene, la telefonata è finita, scusa, chiuso, scusa, no. Ah, già finita. Ma no, dai. Ma stiamo su due ruote, oggi dobbiamo parlare di due ruote. Tu che avventura mi racconti? Ma volevo raccontare la mia storia, praticamente... Sì, ma non tutta quella della tua vita, cioè, cerchiamo di essere... Ecco. L'ultimo che mi è successo, sì. Con un garellino di 35 anni, io e mio fratello siamo andati all'Enica German Festival a Imola. Sì? Da dove? Da dove siete partiti? Dalla provincia di Varese. Ecco, perché se foste partiti da Imola sarebbe stato poco, quindi dalla provincia di Varese... Ci abbiamo messo quasi 24 ore sotto la pioggia, sia l'andata sia il ritorno, non abbiamo trovato né vigili né carabinieri, nessuno ci ha fermato... E beh, non è successo nient'altro, cioè, prima abbiamo parlato di talebani, c'era Osama Bin Laden, c'era di tutto, e tu mi dici che non c'erano neanche i carabinieri. Inventa qualcosa di piccante, avete bucato. Da qua a Imola quasi 400 chilometri sono, abbiamo avuto questa fortuna. Il problema è che io ho 50 anni e non mi sembra una cosa da fare. Ma perché no, scusa, ma mica sei andato a piedi, sei andato con la moto, dai, scusa. È la moto un carrellino tre marce di 35 anni mi sembra una cosa già abbastanza carina, dai. Non mi sembri molto entusiasta, dovresti dirmi guardate cosa ho fatto, sono andato 50 anni col... capisci, devi proprio sottolinearla, così uno dice ma no, anche se non sai di cosa stai parlando resta sbalordito. Come? Niente. No, non ho capito. Guarda, ti richiamo dopo. Ah, sei in macchina, ma come, uno che va in moto va in macchina? Basta. Ciao Damiano, no, ciao, è stata una delusione. Ma ancora, devi. Vabbè, esiste un problema. Che a volte però i motorini vengono rubati. Sentite cosa è successo ad Alex Drastico. Ma come? Ma che cazzo? Mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me. Io giuro al Signore che spererei che tra di voi ci fosse il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen. Cosicché possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Corduto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenertelo, puoi farci ciò che vuoi, ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo solando le mie maledizioni. Mamma mia, a me è successo che hanno rubato spesso le biciclette e anche lì ho mandato le maledizioni a Alex Drastico, è sempre divertente, Antonio Albanese. E vediamo se c'è Enrico. Enrico? Sì, salve, buongiorno. Enrico, mi raccomando, sì. Almeno tu raccontami una storia con molto entusiasmo. Cosa hai fatto? Cosa ti è successo? Cioè, sottolinea, esagera. Cosa hai fatto? Eri motorino? Ma qui la storia stessa è esagerata. Io avevo 18 anni e con sì. Quella che poi è diventata mia moglie decidemmo in macchina di arrivare a Capo Nord. Quindi partiamo da Roma, arriviamo a Capo Nord, 11 giorni di viaggio, 800 km al giorno, vi do la sensazione della fatica per quanto andassi in macchina. Al ritorno ci fermiamo a Copenaghen e al centro di Copenaghen ho incontrato quattro ragazzi di sì, Catania sì. Che erano andati a Capo Nord con i Ciao. Ed erano ancora vivi? Oltre ad essere ancora vivi, la parte divertente è che per loro avevano risolto i problemi logistici portandosi due Ciao smontati. Ah, quindi se si rompeva e c'era pronto l'altro. Erano sei e in quattro li guidavano. Senti, tu hai detto... Ora merito perché avevo 18 anni. Era 18 anni, ma che anno era? Prometto... 80, una cosa del genere. 80, quindi si erano ancora nuovi. E loro ne avevano 16 anni, probabilmente scappati da casa, perché secondo me ci avevano messo 40 giorni per arrivare ad andare, 40 giorni a tornare. Ma secondo te sono tornati indietro o sono ancora lì a Copenaghen? A Copenaghen, al centro di Copenaghen, stavano bene, avevano trovato anche compagnia divertente, quindi immagino che poi in parte l'abbiano passata lì a Copenaghen la fine del... Sì, anche perché il pensiero di dover tornare fino a Catania col ciao da Copenaghen è abbastanza così scoraggiante. Grazie Enrico. Salve, in bocca al lupo. Grazie. Allora, concludiamo la prima parte con un nostro appuntamento irrinunciabile, la Hit Parade. Numero 10, ricordo quando ero bambino, Rox. Numero 9, A Whiter Shade of Pale, Procolarum. Numero 8, Non c'è più niente da fare, Bobby Solo. Numero 7, Stasera mi butto, Rocky Roberts. Stasera mi butto, ti butto con te. Numero 6, La Rosa Nera, Gigliola Cinquetti. Numero 5, La Mia Serenata, Jimmy Fontana. Numero 4, La Banda, Mina. Numero 3, A Chi, Fausto Leali. Numero 2, Nel Sole, Albano. Quando il sole tornerà e nel sole... numero uno, la coppia più bella del mondo, Adriano Celentano. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Sono sicuro che per voi la coppia più bella del mondo è quella che componete insieme alla vostra moto quando andate in vacanza. Vabbè, beati voi. Era il 1967. Perché ho scelto quest'anno? Perché nel 67 fu girato un film fondamentale per gli amanti della moto, che era Easy Rider. Ne parleremo dopo, ma nel frattempo voglio ricordarvi una cosa. Pensate, siete al mare nel 1974, 12 luglio 1974, non so, sarete sulla spiaggia, prendete il sole, totalmente ignari che in quel momento stava nascendo Gabriel Garco. Pensate, voi siete lì e queste minacce che arrivano dalle stelle. In quello stesso momento nasceva Gabriel Garco, che poi era destinato a diventare Mister Settimo Torinese nel 1990. Ma c'è di più, nel 73, mentre magari stavate facendo la Val Gardena a piedi, e voi non sapevate nulla di tutto ciò, nasceva Christian Vieri ed eravate orgogliosi della vostra maglietta, senza sapere che poi Christian Vieri vi avrebbe regalato altre magliette, perché si sarebbe messo a fare anche lui, non dico lo stilista, ma il produttore di indumenti. Ma guarda un po', bisogna stare attenti, bisogna controllare sempre, ogni momento può essere pericoloso, magari in questo momento sta nascendo un prossimo calciatore. Vabbè. Amava soltanto la moto, protetto dal casco integrale, correva a 150 per la città. Dove l'abbiamo trovata questa Carrà? In una, non so, in un museo archeologico, un pezzo vecchissimo che però io mi ricordavo, in cui lei parlava di questo motociclista misterioso che andava a 150 in città, poi gli ritiravano la patente e restava, come dice la stessa Raffaella, un cretino integrale, diceva. Vabbè. Ah, puntata difficile, perché appunto io non so stare in moto, non so andare, non sono mai stato in motorino e devo comunque condurre questa moto fino alla fine grazie al vostro aiuto. 800 24 00 24 per le vostre storie di vacanze o comunque di spostamenti estivi fatti in motorino. Adesso però ascoltiamo un pezzo molto famoso di cinema legato alle due ruote. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Beh, che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli. Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Easy Rider, la libertà. Ma per andare liberi con la moto non possiamo andare in città, non possiamo neanche andare forse in Europa. Ecco perché tutti i grandi viaggiatori, i grandi motociclisti scelgono delle zone poco esplorate. Prima abbiamo sentito Roberto Parodi, che è stato in India e in Africa. Adesso siamo in collegamento, pensate, dalla Colombia con un personaggio che sta facendo qualcosa di assolutamente incredibile. Ilario, pronto? Pronto, ciao Tommaso. Ciao Ilario, ciao, Ilario Lavarra, dovete sapere, è partito tempo fa con una Vespa e sta percorrendo in questo momento l'intero continente americano, nord e sud. Sei partito dal Canada, è vero? No, sono partito da New York, poi ho attraversato il Canada e sono arrivato in Alaska. E poi sei sceso? Poi sono sceso fino in Argentina. E adesso dove ti trovi esattamente? Adesso sto ritornando verso New York per completare il giro e sono in Colombia, nell'Este Cafetero, dove producono il caffè che poi è esportato in tutto il mondo, quello che hai bevuto tu stamattina probabilmente. Ah, secondo te era caffè colombiano? Mi fido di te assolutamente. Senti, Ilario, ma tu stai facendo tutto questo viaggio con una Vespa? Esatto, sì, no, è il mio fidato mezzo di 40 anni, una vecchia Vespa del 70. Ma un po' stracarica. Non ti ha causato problemi? Tutto a posto? Sì, sì, sì, ti dico, l'unico problema rilevante è stato tre o quattro ammortizzatori che sono saltati via, però più che altro per le vibrazioni, per le strade impossibili che ci sono qui. Infatti, perché non saranno strade asfaltate, non sono... Senti, ma tu sei partito un anno fa circa? Sì, sono partito in maggio, ormai è più di un anno e due mesi. Ma hai conservato, wow, l'entusiasmo del primo giorno, oppure hai un po' voglia di tornare a casa, un po' di traffico in tangenziale che ti manca, l'inquinamento? Sì, un po' di smog. No, ti dico la verità, il fatto che comunque sia ogni giorno, conosco gente incredibile, vedo posti stupendi, non ho neanche tanto il tempo di pensare alla nostalgia di casa. E poi, sinceramente, no, non ne ho tanta, cioè, onestamente continuerei, ripartirei anche domani per rifare tutto quello che ho fatto. Tu stai per tornare. 70.000 chilometri che ho fatto fino adesso e continuare, però vabbè dai, chissà, comunque ormai manca poco perché saranno 20.000 chilometri che mi mancano fino a New York. Hai detto niente, già quando uno arriva a Bologna e sta venendo a Milano e vede che mancano 200 chilometri, dice ancora 200 chilometri, qui parliamo di migliaia e migliaia, ma lui la prende molto così, con filosofia. Senti, ma quando poi sarai tornato a casa, soffrirai tantissimo, cosa proverai? Cioè ti ritroverai nella solita routine, avrai voglia di ripartire subito, cosa farai? Io sto pronosticando un momento in cui ritornerò e sarò uno zombie, uno spettro che si aggirerà per le strade senza capire, senza punti di riferimento. Poi non lo so, vediamo cosa succede quando le acque sono calme. Certo che sto vivendo, credo, un'esperienza incredibile, almeno per quanto mi riguarda, e ritornare poi alla routine quotidiana sarà dura. Più che altro, diciamo, riabituarmi a rifare quotidianità come andare a lavorare o andare da qualche parte, al pub con amici, quando qua ogni giorno ti dico un'avventura, ogni giorno vedo qualcosa di incredibile, conosco persone incredibili, ogni giorno è diverso da quello precedente. Ma e ritornare alla routine che mi aspetta, sì, sarà difficile. Secondo me sarà la parte più difficile dell'intero viaggio. Ma dici la verità, hai finito i soldi? Qua è quello che affronterò. Ilario. Però Ilario, dici la verità, c'è sempre qualche difficoltà quando si parla con la Colombia, che insomma si sanno. Ecco, Ilario, hai finito i soldi oppure hai ancora qualcosa? Hai bisogno che ti mandiamo un vaglia postale? Ma sì, se mi volete fare un assegno in bianco, per me non c'è nessun problema. Però ti dico, più o meno dovrei riuscire a cavarmela arrivando fino a New York. È ovvio che poi quando ritorno in Italia inizierò a mendicare o fare qualcosa. Dai, poi addirittura. Anche il fatto di pensare che devo ritornare a lavorare, no, io non ritorno più, ragazzi. Torna. Ma senti, per concludere, dici, qual è stato, Ilario, Ilario? Comunque. Ilario! Sapete, la mia voce va sul satellite, no, torna, no, giù, va su e giù, rimbalza. Ilario, qual è stato l'incontro più strano che hai fatto, almeno nell'ultima settimana? Nell'ultima settimana l'incontro più strano che ho fatto? Urca, fammi fare mente locale. Ti dico il posto più strano che ho visto nell'ultima settimana. Quale? Che ero in Colombia e sono andato a fare un giro sulla costa colombiana. E che vabbè, non è pericolosa, però ogni tanto si incontra qualche componente della FARC che ti alleggerisce il carico della Vespa, o però io ti dico, sono stato fortunato, non mi hanno ancora rubato niente. E poi comunque la Colombia non è così pericolosa come potrebbe sembrare. E comunque sono andato a vedere la costa e mi sono trovato in Africa, praticamente pura Africa, a parte gente di colore e poi anche capanne, palme, mi sembrava di essere arrivato in Africa. Sicuro di non aver sbagliato strada? E poi dico una cosa stranissima, sì. Mi hanno messo su una specie di motocicletta agganciata alla rotaia di un treno e mi hanno trasportato su questa specie di travicolo motocicletta / locomotiva per 50 km in mezzo alla giungla. È stata una cosa incredibile. Ma è un'avventura incredibile. Queste cose, dico, ne capitano due o tre volte alla settimana. Vabbè, Ilario, ci sei? Mi diverto. Oh, Ilario, ti ringrazio tantissimo. Adesso riprendi il tuo viaggio. Vai piano, metti la maglia di lana, mi raccomando. Ciao, Ilario. Ok, posso solo lasciare il contatto del sito? Ah, no, lo lascio io, guarda, lo dico io. C'è un sito che si chiama www.vespanda.it dove potete vedere e seguire tutto il viaggio che sta facendo il nostro Ilario, il quale è andato fino in Colombia per così rischiare di essere rapinato. Ma basta fermarsi a un qualunque autogrill qui in tangenziale, succede la stessa cosa. Bene, abbiamo parlato di Easy Rider prima e adesso ne parliamo brevemente con un'esperta di cinema, la giornalista Adriana Marmiroli di Film TV. Buongiorno Adriana. Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori anche. Senti Adriana, tu non vai in moto però? No, naturalmente. Siamo in due. Un marito appassionato che ogni tanto fa dei tentativi, ma io ho tu rinunci. Un sano timore tutto femminile. Senti, ma temo. Anche se l'unico mio pregresso delinquenziale appartiene al fatto è legato a una moto. Ah. Senti, ma come mai Easy Rider è così importante come film per gli amanti della moto? Da una parte per alcune tipologie di amanti della moto, nel senso che c'è tutto il mondo Harley Davidson, no? Sì. I chopper, questo tipo di moto, no? Le americane, diciamo così, gli hondisti, quelli Sima, con una serie di distinguo, proprio perché è quel tipo di moto che è legata a quell'immaginario, a quel genere di viaggiare. Viaggiare più immersi nella natura, gli altri che hanno le moto più da corsa, se vogliamo, le giapponesi hanno molto più il senso della velocità, viaggiare per viaggiare. Come mai il film che è stato girato nel 67 è uscito un anno e mezzo dopo? Ho letto che è stato un montaggio molto complicato, ma cos'era? C'erano dei problemi? Bah, lì c'erano stati dei problemi, ma soprattutto di distribuzione, per quello che io mi ricordo, nel senso che Easy Rider aveva fatto fatica a essere accettata dalla major che avrebbe dovuto metterla sul mercato. Poi non so se tra Peter Fonda e Dennis Hopper già allora ci fossero state delle incomprensioni, diciamo così, degli attriti, ma poi per anni ci fu questa diversa paternità tra i due, no? Un po', sì, un po' contestata. Avevano anche forse un'idea diversa del film, uno la vedeva più in chiave western, l'altro in chiave più hippie. Comunque noi che comunque è diventato, indipendentemente da tutto, un simbolo dell'andare in moto, del viaggiare, ma ancora di più di questo senso di libertà di quegli anni, ecco. Certo. Adriana, grazie, ci hai ricordato questo film che sicuramente avremo visto tutti e che torneremo a rivedere. Grazie Adriana. Niente, ciao a tutti. Ciao, allora adesso prenderò la metropolitana perché appunto io la moto non so neanche come si metta in moto e me ne torno a casa. Domani però ritorno qui perché domani parleremo di canzoni. Il tema di domani sarà Tira fuori la cicala che c'è in te. Festival, karaoke, concorsi per voci nuove, tutto ciò che d'estate vi fa cantare. Cominciate già a leggere qualcosa sulla nostra pagina Facebook della Bella Estate oppure potete anche lasciare un messaggio in segreteria all'800 28 11 11. Ci sentiamo domani, ciao!